si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento su Radio 24 con l'altra cronaca, il sabato, la domenica, mezzogiorno, le buone notizie, le nuove tendenze che ci salveranno oggi. Puntata realizzata da Pitti Immagine Uomo, la grande kermesse della moda ottimamente rappresentata qua da Firenze. Puntata dunque realizzata in esterna, così come altri programmi che sono stati fatti in questa settimana proprio da qua da Pitti, da Firenze. Subito i contatti. Allora, si può fare trattino Radio 24 su Facebook, si può fare 24 su Twitter. Per i più timidi c'è ancora la mail, si può fare radio24.it. Mi raccomando, mandateci le vostre segnalazioni, perché come sapete ogni settimana ne selezioniamo alcune, le mandiamo in onda e voi vi meriterete l'onore della citazione. Adesso qualche notizia per entrare in argomento. Allora, la prima notizia è un aggiornamento No Slot, il movimento che insomma sta nascendo un po' in tutta Italia, di presa di consapevolezza che di macchinette per i videopoker ce ne sono sin troppe nelle nostre città. Basta guardarsi intorno e si vedono solo videopoker che nascono. A Milano i consigli di zona 1 e 3 si oppongono all'apertura di nuove sale in corso Garibaldi, nella galleria Puccini e anche in corso Buenos Aires, perché sarebbero vicine, troppo vicine alla scuola di via Tommaso da Cazzaniga, e quindi c'è un movimento bipartisan in questi consigli di zona di queste due città per porre un freno alle slot. D'altra parte il sindaco Pisapia ha partecipato anche lui all'appello bipartisan dei sindaci italiani contro le slot, quindi ci sarà sicuramente ascolto. Un'altra notizia viene dalla Puglia ed è questa qua: buone notizie per gli amanti della bicicletta. Come sapete noi siamo amanti seguaci della mobilità nuova, pedali, pedoni e pendolari. In Puglia bici gratis tutta l'estate sui treni regionali, quindi se volete spostarvi per fare i vostri percorsi estivi con la bicicletta, sappiate che potete portarla tranquillamente gratis sui treni pugliesi. Un'altra buona notizia. Adesso andiamo ad iniziare. Se amate l'avventura, se la vostra vacanza ideale quest'estate è zaino in spalla, andando sui sentieri di montagna, allora oltre allo zaino potete caricarvi anche di una webcam e potete partecipare anche voi al progetto Trail Me Up, di una mappatura su video dei sentieri di montagna, dei sentieri sperduti in campagna, dei percorsi alternativi. È un progetto, è una bella iniziativa messa in campo da alcuni italiani che fa gola addirittura adesso a Google, che potrebbe addirittura comprarsi questa startup, questa piccola impresa tutta italiana. Ne parliamo con il suo fondatore e coordinatore Fabio Zaffagnini. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Se io vado su trailmeup.com, che cosa trovo? Allora, attualmente attraverso il nostro sito è possibile fare delle visite virtuali guidate di un sentiero fatto a Yosemite negli Stati Uniti, un villaggio Mursi, che è una tribù sperduta nel sud dell'Etiopia, più alcuni villaggi in Tanzania. E questi sono viaggi che hai fatto tu? Sì, sono viaggi che ho fatto io l'anno scorso, in realtà sì. Ce ne sono molti altri che sono pronti per essere pubblicati, ma non abbiamo ancora avuto il modo e il tempo di inserirli. Però si parla di una ventina di viaggi fatti tra Stati Uniti, Tanzania, Cuba, Nuova Zelanda, Turchia e poi molti altri che adesso stiamo acquisendo e che entro breve saranno disponibili. Come nasce questa idea di fare questa mappatura dei sentieri, dei percorsi in giro per il mondo e poi anche in Italia? Cioè, un'idea, non ci aveva pensato nessuno perché non serve a nulla? No, perché invece poi appena l'avete messo in rete c'è stata un'esplosione di interesse. Sì, in realtà il progetto è nato un paio di anni fa, addirittura da un viaggio in Patagonia mi sono detto che sarebbe stato bello estendere gli street view anche ai luoghi sperduti, quindi sentieri, foreste, deserti, montagne, parchi naturali. Ho visto che non c'era niente di simile in rete, mm-hmm. quindi ho detto ok, ci provo io. Abbiamo pubblicato i primi sentieri anche perché inizialmente l'obiettivo mio e quello dei miei soci era quello di visitare i posti più belli del mondo ed essere pagato per farlo. Però, una bella aspirazione, una giusta ambizione. Ovviamente questo è un modello di business che non è che sia proprio funzionale, quindi abbiamo deciso di cambiare e abbiamo previsto un sistema di reclutamento attraverso il web, attraverso cui le persone possono proporsi come panomappatori, che questo come è si chiama, scusa? Noi li chiamiamo panomappatori. Che cioè, pano? Pano perché fanno delle foto panoramiche. Ah, ok, certo. Quindi noi inviamo a loro gratuitamente il nostro tenet di acquisizione, loro vanno a mappare il territorio e quindi noi riusciamo ad inserire un elevatissimo numero di sentieri all'interno del nostro sito e rendiamo il nostro progetto sostenibile da un punto di vista economico. Mm. E dal momento in cui abbiamo avviato questo sistema di reclutamento abbiamo ricevuto davvero centinaia e centinaia di richieste di volontari che non aspettano altro di raccontare i loro territori e i posti dove sono cresciuti. Ecco, questa ambizione la posso capire, cioè che uno voglia anche raccontare i posti belli che conosce che non sono visibili agli altri, però detto da uno che internet lo usa, però insomma, magari non sarò un patito, ma non si perde un po' la poesia, cioè che non è il bello di andare, che ne so, in Patagonia, in montagna, proprio che ci arrivi tu e gli altri non ci arrivano, invece in questo modo si rende visibile a tutti, è una cosa di cui c'è bisogno secondo te, perché? Allora, diciamo così, ovviamente nessuno, cioè un'esperienza reale, diretta e in un posto reale non è assolutamente confrontabile con quello che si può fruire all'interno di un sito web. Fondamentalmente fare una camminata è un'esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi, mentre quella su un tour virtuale è un surrogato, però di fatto diamo la possibilità a tutte le persone che per un motivo o per un altro non potranno mai visitare quei posti, per motivi fisici piuttosto che economici. Diamo l'occasione a una persona che deve pianificare un viaggio di vedere in anteprima come può essere, per poi capire se effettivamente gli può piacere o se può essere in grado realmente di farla. Quindi, ecco, insomma, e che tutto sommato ci sia anche forse un mercato, uno spazio, un interesse per quello che state facendo, oltre all'effetto virale che si sta un po' creando. Sì. Lo dice anche il fatto che Google sia interessata a voi. Adesso facciamo una pausa per il traffico e poi Fabio Zaffagnini di Trail Me Up ci spiegherà come sta andando avanti, se c'è una trattativa intanto con Google, è vero che si sono fatti vivi? Non è una vera e propria trattativa, però in effetti siamo entrati in contatto e adesso vediamo quello che succede, insomma. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Fabio Zaffagnini di trailmeup.com, un sito dove potete trovare la mappatura, la videomappatura di alcuni sentieri di montagna, di località, l'abbiamo sentite poco fa, insomma, straniere, ma che sta crescendo e che è un esempio di street view applicata appunto a situazioni, come le possiamo definire, Fabio? Situazioni estreme, di montagna, di vacanza, come le vogliamo definire? Ma direi tutte le zone raggiungibili solamente a piedi. A piedi, quindi sentieri percorribili a piedi. Esatto. Un'iniziativa che ha interessato anche Google, che forse voleva fare una cosa del genere, vi ha contattato. Che cosa vi hanno detto? Cosa vi siete detti? Beh, loro sono stati molto gentili e molto carini con noi, nel senso che il fatto di ricevere una telefonata da qualcuno che si chiama Google per una realtà piccola come la nostra è stata cosa molto agognata, ma ha rappresentato davvero una sorpresa. Ci hanno fatto i complimenti, hanno detto che siamo stati molto bravi a riuscire a in qualche modo ad anticiparli per quello che riguarda i sentieri. E poi dopo niente, ci hanno detto ok, che cosa possiamo fare insieme. Noi abbiamo fatto la nostra proposta, ovviamente avere l'endorsement di una realtà del genere ci farebbe davvero molto comodo, anche perché ovviamente non possiamo assolutamente pensare di competere sullo stesso campo con una realtà come quella, e quindi vediamo. Chiaramente adesso tu non è che puoi entrare nel dettaglio di dirci quello che vi siete detti, perché ovviamente c'è anche un minimo di segreto commerciale su questo, e mi sembra giustissimo. Possiamo dire un'altra cosa però, che questa cosa che avete messo in piedi non è solo una trovata di alcuni smanettoni. Tu, tra l'altro, sei un geologo del CNR, quindi sì. Insomma, ti porti dietro anche un bagaglio personale da questo punto di vista qua, di conoscenza, ecco, anche dell'ambiente che si trova frequentando i sentieri di montagna, e avete già una mini attività economica che si lega alle aziende per il turismo? Sì, noi di fatto cerchiamo di ottenere dei lavori da parte di enti o organizzazioni che operano per il turismo e vogliono valorizzare i loro territori. Quindi noi raccogliamo le richieste, creiamo delle missioni, facciamo il team di volontari per la mappatura e qui dopo spediamo tutti questi volontari a mappare come dei pazzi i sentieri per ora in giro per l'Italia, e poi dopo, se la cosa funziona, andremo anche all'estero. Un'altra cosa che non ho detto e che forse rappresenta una cosa che davvero ci distingue da quello che può essere una street view normale è la parte dei contenuti. Sì. Perché noi, oltre alla parte di navigazione, aggiungiamo in determinate panoramiche, cioè quelle più interessanti, dei contenuti che spiegano con un taglio documentaristico quello che è inquadrato all'interno delle immagini più interessanti. E quindi tutto diventa una sorta di documentario interattivo fatta dalle persone, e vediamo che aver demandato questa parte ai volontari ci permette di far trasparire davvero l'amore per il territorio e l'amore per le zone che questi escursionisti visitano praticamente tutte le settimane. E insomma, una bella storia. Avete sentito, la mappatura dei sentieri, per una volta gli italiani ci arrivano prima, tutto sta poi come sempre a non farsi mangiare dal gigante Davide contro Golia. Andremo a vedere come va a finire, magari il vostro sogno è proprio quello di essere comprati da Google e che vi riempirà di soldi, o forse no, c'è qualcosa che va al di là della questione economica? Ma noi lo facciamo o se facesse... Allora, cioè, noi siamo partiti per gioco, adesso sì. Abbiamo deciso di fare le cose sul serio, abbiamo partecipato a un po' di bandi, li abbiamo vinti, e quindi adesso sta diventando, sì, è diventata un'impresa, però non vogliamo assolutamente perdere la componente di sogno, di gioco e di divertimento, che questa è proprio la nostra prima prerogativa. E anche dopo... questo aspetto di volontarietà, no, da parte di chi poi partecipa a questa iniziativa, fa sì che siete una specie di Wikipedia dei sentieri di montagna, potrebbe essere esatto. Questo. Sì, ci piacerebbe riuscire a diventare o essere inquadrati in un modo del genere. Davvero, cioè, sarebbe bello riuscire a pubblicare le lettere che ci arrivano, perché sono davvero stupende. Cioè, e se danno... qualcuno che ci sta ascoltando è interessato a fare qualcosa per voi, a entrare così in sinergia, mettersi lo zaino in spalla e la webcam, cosa deve fare? Basta mandarci una mail attraverso il sito trailmia.com, c'è una parte di reclutamento, le mail ci arrivano direttamente, io rispondo fino ad ora, perdendo un sacco di tempo, sto rispondendo personalmente a tutte le persone che ci scrivono, sono davvero centinaia e centinaia di persone, e poi dopo li metteremo, stiamo organizzando tutti questi contatti in una maniera più razionale possibile, e allo stesso tempo stiamo facendo della raccolta fondi per realizzare un numero sufficiente di zaini che ci permetta di inviarli in giro il più possibile, quindi avere una copertura molto intensiva del territorio in breve tempo. Va bene, grazie allora Fabio Zaffagnini, trailmeup.com, grazie per essere stato con noi, questa è l'iniziativa, avete sentito? Se invece per andare in vacanza non potete fare a meno assolutamente della vostra bicicletta, allora restate con noi perché abbiamo un bel progetto per voi. L'ho incontrato dopo poche ore, è tornato senza mai un lamento, è cambiato come non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione per mettere questa canzone, perché il progetto che abbiamo annunciato che riguarda le biciclette si chiama Vento. Progetto Vento, il progetto di una pista ciclabile che unisca Torino a Venezia. Un ciclabile lunga quanti chilometri? Adesso lo chiediamo al responsabile di questa iniziativa, che vede coinvolto il Politecnico di Milano. Lui è Paolo Pileri, professore del Politecnico, responsabile del progetto Vento. Buongiorno Paolo.

ci ha scritto dicendo ci interessa, va bene? Quindi questo, e prima di lui i 60 parlamentari che si sono riuniti sotto questa nuova etichetta di gruppo interparlamentare per la mobilità nuova e ciclabile, Sì. hanno fatto una prima riunione che hanno fatto in Parlamento, hanno dedicata a Vento e hanno approvato il progetto Vento. Fantastico. Però Quindi se lei dovesse dire una data per sbilanciarsi una nella quale data. no, no, questo proprio, cioè, le chiedo veramente troppo. Diciamola. Diciamo, No, no, no, diciamo. diciamola, noi teniamo ancora, noi eravamo partiti l'anno scorso dicendo in 3 anni si fa, Sì. quando aprite Expo aprite questo. Noi pensiamo che oggi non si riesca ad aprire probabilmente tutta, ma Una se si parte. volesse un segnale forte si potrebbe Diciamo, entro il assolutamente dare. 2015, entro Sì, Expo, diciamo una che due parte di questi terzi, percorsi ma dovrebbero già essere fantastico. Allora, insomma, sì. noi siamo qua, voi siete là, le piste ciclabili sono lì da fare, da legare tra di loro, ci risentiremo, speriamo che il progetto Vento vada avanti, noi la nostra piccola parte di sostegno ve l'abbiamo data. Grazie a Paolo Grazie. Pileri del Politecnico di Milano, questa era l'iniziativa del progetto Vento. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua oggi di nuovo in vostra compagnia e di nuovo puntata realizzata interamente da Pitti Immagine Uomo qua da Firenze, la grande kermesse della moda. E nella moda italiana, l'eccellenza italiana della moda nel mondo, c'è spazio però anche per giovani imprese che innovano. Loro sono due ragazze, sono giovani, hanno un'impresa che innova e si sono inventate il filato dal latte, cioè loro producono delle t-shirt che non ci crederete, ma sono prodotte da filati che derivano dal latte, quindi filati naturali, una tradizione toscana che loro sono andate a recuperare e che però per recuperarla del tutto sono dovute andare in Germania ad acquistare la materia prima, perché oggi questa cosa qua in Italia non si fa più. Il nostro inviato qua tra i padiglioni di Pitti Immagine Uomo, Stefano Totoro, le ha scovate. Loro sono Antonella Bellina e Elisa Volpi, la loro azienda si chiama Due di Latte, sentite la loro storia. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Come nascono le Bevete più. magliette dal latte? Le t-shirt di latte nascono innanzitutto da un'idea, l'idea di poter dare un prodotto nuovo, davvero innovativo, che dia benessere, dia piacevolezza addosso. Quindi dagli scarti, diciamo, della lavorazione del latte viene creata questa fibra, la fibra poi viene trasformata in un filato e il filato poi viene da noi trasformato in un tessuto attraverso l'ausilio di tutto quello che è l'indotto manifatturiero toscano, quindi i grandi artigiani del tessuto che ci danno una mano per creare un prodotto davvero di qualità, che poi viene appunto tagliato, cucito, confezionato dalle manine delle sarte toscane, che è stata un'impresa ancora a ritrovare e che comunque ci aiutano in questo progetto. Come vi è venuta l'idea? Io conoscevo questo prodotto già da diversi anni, perché sono un amante di quelle che sono le fibre un po' sperimentali, un po' particolari, quindi il cocco, il legno, eccetera. Ed effettivamente la fibra di latte è una fibra che nasce negli anni 30 in Italia, proprio brevettata in Italia negli anni 30, nel periodo autarchico, poi un po' decaduta. E nel momento in cui abbiamo pensato a un prodotto davvero nuovo, abbiamo pensato che questo potesse essere quello giusto. Quanto è difficile fare impresa adesso in Italia e avviare un'impresa? Non è facile. Noi ci siamo messe in gioco personalmente al 100%. Ci hanno sbattuto anche diverse porte in faccia, te lo dico. Alla fine ci siamo rimboccate le maniche, ci siamo buttate, ma nonostante siamo donne, nonostante siamo giovani, nonostante tutte queste belle parole, poi in realtà ci siamo un po' fatte da sole, nel senso che ci siamo dovute inventare come fare praticamente, ecco perché Ma ci siamo. si può fare però, si può fare. L'idea c'è, le competenze ci sono, quindi vediamo, debuttiamo, speriamo vada tutto bene. Avete avuto un tipo di aiuto economico? Ve la siete cavata da sole? Ce la siamo cavata da sole e ce la stiamo cavando da sole. È un'azienda totalmente in rosa. Sì. Siamo due di latte, due donne di latte. Sì. Che tipo di riscontri avete avuto finora? Allora, come prima giornata del Pitti, ottimi direi. Siamo venute qua nel panico, nel senso che non sapevamo cosa aspettarci. C'è chi dice no, ma non vi aspettate chissà cosa. C'è chi dice sì, qualcuno viene. Invece sono venute tante persone, sono rimaste tutte molto entusiaste del prodotto, della novità, del tessuto. L'idea è piaciuta dall'inizio alla fine. È piaciuto il tessuto, è piaciuto il packaging, è piaciuto lo stile, è piaciuto in generale tutto. Quindi direi estremamente positiva come prima giornata al Pitti. Beh, diciamo così che noi attraverso la nostra esperienza pregressa nel settore della moda abbiamo sempre avuto la possibilità di essere a contatto con ditte storiche nella lavorazione non soltanto dei tessuti ma anche proprio nella manifattura. Il territorio vi è venuto incontro? Il territorio ci è molto venuto incontro e soprattutto i fornitori veri e propri, quindi di tessuti, di filati, la manifattura e quant'altro, hanno creduto tutti in questo nostro progetto sostenendoci nelle produzioni di questo campionario. Nella creazione dei primi prototipi fin da subito, e questo è una cosa molto importante perché ad oggi si tende a tenere da parte quelle che sono le piccole realtà emergenti a discapito di quella che è poi effettivamente la creatività. E invece il territorio ci è molto venuto incontro e l'indotto manifatturiero toscano è un indotto di qualità altissima, pregiatissima, e ci sostiene al 100% in questo senso. In un momento economico diciamo abbastanza difficile ci vuole molto coraggio per aprire un'impresa mentre ne chiudono tante, e che cos'è che vi ha spinto a farlo nonostante la congiuntura economica negativa? Ti dico la verità, ci siamo guardate e abbiamo detto se si fa ora bene, se no non si fa più, quindi buttiamoci, come va vediamo, impegniamoci al massimo per tirar fuori un bel prodotto, però facciamolo ora perché chi lo sa, magari si riprende l'economia, magari il prodotto è, diciamo, per gli amanti del Made in Italy, quindi può essere esportato, è un prodotto di qualità, perché c'è anche una controtendenza adesso che è quella di puntare più sulla qualità che sulla quantità, e questo effettivamente l'abbiamo riscontrato, abbiamo fatto delle ricerche anche per quanto riguarda le vendite, le affluenze alle varie fiere, cosa comprano, come comprano i buyer, quindi un po' ci abbiamo studiato e un annetto di ricerche, alla fine abbiamo deciso di buttarci. E questa, insomma, avete sentito, era la storia delle due giovani aspiranti imprenditrici, Due di Latte, un'iniziativa presentata qua da Pitti Immagine Uomo. Adesso una notizia che riguarda un imprenditore. Quando l'imprenditore può avere anche un ruolo sociale? Sentite qua, a Cereto Guidi ha regalato questo imprenditore un viaggio ai suoi 16 dipendenti, così per gratificarli di quello, il lavoro che avevano fatto nell'anno insieme a lui. Insomma, una delle tante storie che dimostra che ci sono degli imprenditori che vogliono dare qualcosa anche alla loro collettività. La prossima storia è uno che ha fatto ancora un passo in là. Da Parigi fino a Nardò, in provincia di Lecce, è la storia di Antonello Rizzello, che intanto salutiamo. Buongiorno. Salve, buongiorno. Imprenditore con le sue attività appunto a Parigi, non si è dimenticato però delle sue origini e dell'Italia e ha voluto fare un investimento per recuperare una parte di Nardò che da tempo non se la passava bene. No. E esattamente su che cosa lei ha investito per risanare questo pezzo di città? Allora, io ho investito circa 2 anni fa

dalle passioni personali. Insomma, in chiave magari non stupida, ma anche un po' leggera, perché chiaramente se uno va in un ospedale non è che arriva lì con un carico da 90, perché come vi è venuta in mente questa idea? Come nasce questo progetto e allora, qual è il rapporto che avete anche con gli ospedali? Perché immagino che bisognerà chiedere il permesso forse per andare a fare questo. Sì. Assolutamente, questo progetto nasce nel 2010 grazie al Circolo dei Lettori e alla collaborazione con le biblioteche civiche. Inizia come progetto dedicato agli under 35 nel contesto di Torino, capitale dei giovani, mentre dall'anno dopo, quindi dal 2011, viene allargato a tutti, quindi adesso ci sono volontari di tutte le fasce di età, cioè tutti possono entrare a far parte dei volontari per la lettura. Siete diventati un po' meno selettivi da questo punto di vista. Siamo un po' meno selettivi. Anche un over 35 può venire lì a diventare. Quanti siete intanto come volontari? Siamo una settantina. Oggi contiamo 70 volontari. E quanti ospedali? Che fasce orari? Quanto riuscite a coprire? Siamo in tre ospedali di Torino. Sì. Siamo Gradenigo, Molinette e Mauriziano. E copriamo 3 reparti alle Molinette, 2 reparti al Mauriziano e tutti i reparti del Gradenigo. Dopodiché stiamo all'Istituto di Riposo per la Vecchiaia, nel reparto di lungodegenza delle Molinette, e abbiamo un gruppo di lettura qui al Circolo dei Lettori per i pazienti afasici. Mi immagino, anzi ti voglio chiedere, la faccia del paziente, del malato, di quello che è lì con una gamba rotta all'ospedale e che si vede arrivare i volontari per la lettura. Buongiorno, salve, vorrei leggerle un raccontino. Cioè, è una cosa che stupisce, no? È una cosa che stupisce per chi non ci conosce. In realtà adesso in questi 3 anni ci siamo fatti conoscere, anche il personale ospedaliero adesso ci fa un po' di pubblicità, però comunque è una cosa che fa piacere perché è diversa dal solito, cioè uno in ospedale comunque magari ha difficoltà a passare il tempo perché non sa bene cosa fare. Arriviamo noi che proponiamo questa nuova iniziativa, questa cosa un po' strana della lettura ad alta voce per passare quella mezz'ora, quell'oretta insieme e poter anche discutere, perché poi noi non leggiamo solo, ma dalla lettura si passa alla discussione, si ha un quindi fate confronto. Due servizi in uno, cioè prima la lettura e poi anche il dibattito. No, se viene fuori il dibattito, se si inizia a chiacchierare, ben volentieri, noi rimaniamo, non è che solo lettura e se non si legge ce ne andiamo. E la lettura viene fatta per coinvolgere, immagino, un po' chi sta lì, quindi sarà una lettura un po' teatrale. Ci puoi fare anche magari un esempio? Sì, allora io vi posso leggere un breve pezzettino tratto da Momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo, che è un libro che raccoglie quelli che sono un po' i momenti della vita quotidiana che hanno una goccia di felicità. Vado, Sì. Allora. Quando sono stato per la prima volta in montagna e ho fatto una passeggiata lunga chilometri in mezzo a mucche, ruscelli, marmotte, una fatica immane, arrivati al rifugio su in cima ho visto che c'era un grande espositore di cioccolata al latte fondente e il capogruppo ha detto che dovevo comprarla e dovevo mangiarla perché mi avrebbe fatto bene. E per la prima volta in vita mia mi sono seduto su un masso e ho addentato una grande tavoletta di cioccolato con l'idea che dovevo mangiarla, che mi faceva bene. Voglio dire, uno si lascia proprio cullare da questa lettura. Io ho chiuso per un attimo gli occhi, per fortuna che non mi sono addormentato, però... Meno male. Beh, complimenti. Insomma, è una bella iniziativa. Chissà, magari qualcuno che ci sta ascoltando viene voglia di farla anche altrove, o forse... se già anche in altre città la stessa cosa la state facendo, segnalatecela a tutti i contatti del programma, perché a noi ci piace anche di dare voce a queste iniziative. Siamo in chiusura, ringraziamo Stefania Pezzolli. Grazie a voi. Del Circolo dei Lettori di Torino, che ci ha parlato di questa bella iniziativa Volontari per la Lettura. Noi ci fermiamo qua, anche per oggi è tutto. Grazie Stefania. Grazie a voi. Un abbraccio, ciao, a presto. Ciao. Io ringrazio Franco Piantani della redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Valentina Magri in assistenza in redazione oggi qua da Pitti Immagine Uomo a Firenze, anche Valerio Rocchetti in regia, Guido Scotti, Elena Ligios e Davide Ciocia di Radio 24. È tutto, noi ci sentiamo con Si può fare sabato prossimo. A me mi trovate su Twitter @AleMaurizzi. Si può fare. Cronache da un paese migliore.